Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Il coraggio è forza d'animo. Il coraggio è determinazione. Il coraggio è la capacità di affrontare situazioni difficili senza rinunciare alla dimostrazione dei più nobili attributi della natura umana. Il coraggio, in una parola, è cuore. La storia di oggi riposiziona il valore della parola coraggio all'interno della sua definizione più pura. Let us start a new battle here today. And let the historian say that on the 6th of December 1976, the Irish people started a new kind of battle. A battle to replace all wars with peace, all hate with love. La voce che avete appena sentito è quella di Mairead Corrigan. Mairead Corrigan. È una fredda mattina di dicembre del 1976, nella città irlandese di Derry, come la chiamano i cattolici, o Londonderry, come la chiamano i protestanti. Migliaia di persone sono accorse per partecipare alla marcia dove si vuole dare il via a un nuovo tipo di battaglia, quella della pace. Sembra che nel paese si faccia largo una nuova coesione, una nuova visione del futuro e che la gente abbia ritrovato un po' di speranza. Da troppo tempo le bombe insanguinano le strade, da troppo tempo i morti ammazzati sono la notizia del giorno nei telegiornali. Ma per capire meglio il sentimento che spinge la giovane ragazza che da un palco costruito nella piazza principale sta lanciando il suo messaggio, stringendo a sé un bambino con una piccola ferita sul sopracciglio destro, dobbiamo fare un piccolo passo indietro. Non solo alla sua storia personale, ma a quella del suo paese. La storia dell'Irlanda moderna comincia il 6 dicembre del 1921, quando col contratto concluso tra il governo inglese e il patriota Michael Collins viene sancita la divisione dell'Irlanda in due entità politicamente distinte. Il nuovo Stato libero irlandese, che comprende 26 delle 32 contee in cui è divisa l'Irlanda, e l'Irlanda del Nord, formata dalle restanti 6 contee, con un proprio Parlamento, sottoposto però alla sovranità del Parlamento inglese. Collins muore solo l'anno successivo, rimanendo nella memoria di tutti come uno straordinario leader che guidò il popolo irlandese ad affrancarsi dal dominio britannico, portando il suo paese a fare i primi passi sulla strada dell'indipendenza. Certi uomini sono quello che i tempi richiedono. Lo stesso vale per la storia di cui parliamo oggi, che nasce dalla storia di un paese e dalla storia dei suoi abitanti, ma anche dalla geografia. Poiché comunque la si giri, guardando la più grande isola della costa nord-occidentale d'Europa, sembra sempre che voglia afferrare la più piccola che gli sta di fianco. L'ingerenza negli affari irlandesi da parte del governo inglese è stata la fonte di tutti i suoi problemi di politica interna e fonte dei cosiddetti Troubles, eufemisticamente tradotti come i disordini irlandesi, da cui nasce l'incontro dei protagonisti di oggi. Ma tutto ha inizio davvero molto tempo prima. Già nel XVI secolo, la regina Elisabetta I, figlia di Enrico VIII, decide di imporre la legge inglese agli irlandesi, quasi come una sorta di missione civilizzatrice nei confronti di questi ultimi. Ecco quanto scrive la reggente ai suoi rappresentanti in Irlanda. Desideriamo che quando se ne offra la possibilità, voi cerchiate di condurre quella barbara e rozza nazione alla civiltà, con le buone maniere e senza ricorrere all'uso della forza e allo spargimento di sangue. Tuttavia, quando le circostanze lo impongano, dovete piegare con la forza coloro che non possono essere persuasi con la ragione. Parole dure. A questo si aggiunga che la riforma, che ha fatto dell'Inghilterra un paese protestante e del suo re il capo della Chiesa al posto del Papa, non ha avuto successo in Irlanda. Il dominio inglese, però, fa in modo che anche in Irlanda ci sia formalmente il protestantesimo. I cattolici sono in realtà il numero più consistente della popolazione, ma formalmente l'Irlanda è un'isola protestante. Nel 1937 lo Stato libero d'Irlanda, l'Eire, si dota di una sua Costituzione, dove la Chiesa cattolica viene riconosciuta come la religione della maggior parte dei cittadini. e per l'Irlanda del Nord, per quelle 6 contee confinate a nord, le più vicine alla Gran Bretagna. Le cose stanno un po' diversamente qui, anche per il solo fatto che i protestanti sono in numero maggiore rispetto ai cattolici. Nel frattempo, tutto il mondo si prepara alla Seconda Guerra Mondiale. La dichiarazione di guerra è già stata consegnata agli ambasciatori. Agli ambasciatori di Gran Bretagna e di Francia. Mentre in Italia si sta vivendo il periodo fascista e si dichiara guerra alla Gran Bretagna, in Irlanda è finita da poco la guerra civile che ha portato alla costituzione dell'Eire, dividendo l'isola in due. L'Irlanda del Sud, l'Eire appunto, in occasione del secondo conflitto mondiale, decide di rimanere neutrale. Capo del governo è Eamon de Valera, che rivendica a gran voce la neutralità del suo paese, quella prova di sostanziale indipendenza ottenuta nel 1937. Nel 49 viene ufficialmente proclamata la Repubblica d'Irlanda, a capo della quale per ben 3 mandati ci sarà De Valera. L'Eire ottiene così il riconoscimento da parte della Gran Bretagna, che contemporaneamente si impegna a garantire l'autodeterminazione dell'Irlanda del Nord, che invece è ancora pesantemente divisa tra unionisti, cioè protestanti che vogliono rimanere con la Gran Bretagna, e nazionalisti, cioè cattolici, che vogliono l'indipendenza. La divisione delle due Irlande si fa ora più forte, così come il malcontento della popolazione. Okay, I want to talk about Ireland. Specifically, I want to talk about the famine. About the fact that there never really was one. There was no famine. See, Irish people were only allowed to eat potatoes. All of the other food, meat, fish, vegetables, was shipped out of the country under armed guard to England while the Irish people starved. Quando l'Eire esce dal Commonwealth e si dichiara indipendente dalla Gran Bretagna, Mairead Corrigan ha solo 5 anni. Nata in una famiglia di operai cattolici di Belfast, seconda di 7 figli, cresce con la consapevolezza delle difficoltà della vita dal punto di vista economico, religioso e politico per chi vive in quella parte d'Irlanda. Conosce benissimo la storia del suo paese. In famiglia, a scuola, non si parla d'altro. Il clima non è mai tranquillo. Ai bambini non è permesso giocare per le strade, soprattutto se si è bambini cattolici come Mairead. I cittadini cattolici, infatti, vengono discriminati dalla maggioranza protestante. Per i cattolici è più difficile trovare lavoro e l'assegnazione delle case popolari non è un diritto che li riguarda. Oltre a ciò, anche dove sono in maggioranza, per esempio a Derry, le circoscrizioni elettorali sono disegnate in modo da non permettere loro di vincere le elezioni. Anche se non è propriamente solo un fatto religioso, ma soprattutto politico, essere cattolici comunque non è facile. Ecco come ne parla Mairead. Abitavamo in una comunità profondamente divisa, dove la politica della paura, della separazione, della divisione era molto, molto profonda. E ognuno guardava l'altro solo inquadrandolo come appartenente all'altra parte, all'altra comunità. Inquadrare il nemico come appartenente, in maniera semplicistica, alla religione di chi vuole l'indipendenza dalla Gran Bretagna è l'atteggiamento dei più. Essere dell'altra comunità è già motivo di discriminazione, soprattutto se si è in minoranza. In certe zone di Belfast, soprattutto quelle più povere, quelle operaie, dove le famiglie sono numerose e si fatica ad arrivare alla fine del mese, la maggioranza è cattolica. Così è nella famiglia Corrigan, dove il padre fa il lavavetri e la madre con 7 figli non può che occuparsi della casa. Le difficoltà economiche sono enormi. La stessa Mary, da 14 anni, è costretta a lasciare la scuola per contribuire al sostentamento della famiglia. La violenza è ovunque intorno a lei. Non in famiglia, ma appena fuori dalle protette mura domestiche, dove ci sono gli sguardi del sospetto che alimentano la paura. Abitavamo nella zona ovest di Belfast, che era una comunità cattolica. Soffrivamo tremendamente durante i Troubles, perché in quella zona, che era una zona operaia, la gente soffriva per la violenza di entrambi gli schieramenti. C'era l'esercito, ma c'erano anche le organizzazioni paramilitari in quella zona. La violenza era un obiettivo forte. C'era violenza militare, c'era violenza paramilitare, un circolo di violenza che andava alimentandosi. Sì, violenza è la parola d'ordine con la quale cresce Mairead. Ripeterla all'infinito, quasi come un mantra, per vederla scomparire, è quello che lei cerca di fare sin da ragazzina. Lei che ha modi così gentili, che parla in maniera quasi sussurrata per non aggredire con le sue parole chi l'ascolta. Lei che è accogliente verso tutti, anche verso chi la guarda come una diversa perché cattolica, non vuole rassegnarsi a vivere nella sua Irlanda divisa dalla violenza. La sua famiglia le ha insegnato la tolleranza, soprattutto il padre, come ricorda lei. Credo di aver preso questo sentimento da mio padre. Mio padre diceva sempre, quando eravamo piccoli, quando ci faceva dire la preghiera ogni sera prima di andare a letto, non lasciare mai troppo spazio alla tua rabbia, ma perdona. Le donne irlandesi partecipano alla situazione del proprio paese in maniera diversa rispetto agli uomini, anche perché differente è il loro coinvolgimento. In casa Corrigan le donne sono la maggioranza. Mentre gli uomini sono impegnati in prima persona militarmente e politicamente, le donne aspettano a casa il bollettino di guerra, perché di guerra si tratta. Si parla di morte sul lavoro, di morte civile, di morte politica e spesso di morte vera e propria. Una delle organizzazioni paramilitari che fa molti proseliti, grazie anche al clima di terrore che si è creato negli anni, è l'IRA, l'Irish Republican Army, organizzazione per lo più di stampo cattolico, che punta alla costituzione di una Repubblica d'Irlanda, come è stato per l'Irlanda del Sud, in piena autonomia dal governo inglese. La campagna dell'IRA, dal 56 al 62, è fortissima. Sempre più giovani vi entrano a far parte, sono gli anni 60, gli anni in cui in tutto il mondo c'è fermento per i diritti civili. And I've seen the promised land. Another night of violence. The burnt out barricades are still in position. The tear gas still hangs in the air. 400 Viet Cong have already died and a lot more are dying in there right now. Nel 66, a casa di un avvocato cattolico e repubblicano di Derry, viene fondata la Northern Ireland Civil Rights Association. Un'organizzazione che si propone di chiedere riforme e ovviamente un'organizzazione non vista di buon occhio dai protestanti. Essere cattolici crea molti problemi. Problemi che si ripercuotono sulla famiglia intera, a partire dai giovani in cerca di lavoro, come dice questa signora fermata per strada. Non danno il lavoro ai ragazzi perché sono cattolici, anche se hanno fratelli e sorelle da mantenere. Il lavoro è un problema dei ragazzi cattolici, non di quelli protestanti. How many will reach their receiver? Oh, I wish I was back home in Derry. Oh, I wish I was back home in Derry. L'IRA sembra essere l'unica arma nelle mani dei cattolici per far sentire la loro voce contro il governo inglese. E quando nel 68, sull'onda delle manifestazioni per i diritti civili che fioriscono nel resto del mondo, anche la Northern Ireland Civil Rights Association decide di unirsi agli studenti che manifestano in piazza, succede l'irreparabile. La prima manifestazione si tiene ad agosto e viene repressa duramente. Il 5 ottobre la popolazione ci riprova. L'epicentro delle proteste è sempre la città di Derry, dove dopo una notte di scontri particolarmente violenti, sul muro di una casa di St. Columb's Well, all'entrata del Bogside, il principale quartiere cattolico della città, compare una scritta destinata ad entrare nella storia del conflitto. You are now entering Free Derry, e cioè state entrando nella Derry libera. Hanno inizio i Troubles. Situazione alquanto insolita è anche quella delle elezioni di quello stesso anno. Il clima è davvero rovente. Nei mesi seguenti, le manifestazioni per la difesa dei diritti civili si susseguono fino all'agosto del 1969, quando, come ricorda la Corrigan, la paura aumenta. Well, in the north of Ireland, we have got a very deep ethnic political conflict. In questo paese abbiamo un conflitto politico molto profondo, che ha una storia molto lunga. Ma nel conflitto più recente tutto è cominciato nel 1969. Quando la violenza ha avuto inizio e la gente ha cominciato ad avere davvero paura della separazione tra le due comunità. La gente era realmente spaventata. Bruciavano case, le persone scappavano dalle città e alcuni politici hanno deciso di chiamare in soccorso l'esercito inglese. E l'esercito è arrivato. In pratica l'esercito ha diviso fisicamente le due comunità, si è messo a metà tra le due comunità. Si pensava fosse la soluzione, ma una volta fatto ci si rese conto che adesso anche l'esercito era parte del problema. Avere l'esercito in casa non era una bella cosa. Questo ha aggiunto paura e confusione nella gente. Nella notte del 14 agosto, gli scontri si estendono a Belfast, dove alcuni gruppi di estremisti protestanti mettono a ferro e fuoco le vie abitate dai cattolici. I cittadini cattolici sono costretti a fuggire dalle proprie case per rifugiarsi in altri quartieri. Il giorno dopo, il governo britannico decide di inviare un folto contingente di truppe per ristabilire l'ordine. Mayrd ricorda bene quel periodo. Lei è una ragazza di 25 anni, partecipa al dolore della sua gente, all'impossibilità di far sentire la propria voce senza però dover ricorrere alla violenza. Tra le vie della sua città, di un anno più vecchia, c'è un'altra ragazza che vive in maniera altrettanto sentita le vicende dolorose dell'Irlanda del Nord. Nessuna delle due sa ancora che di lì a qualche anno le loro strade si incroceranno, dando il via a una nuova speranza per il loro paese. Nel frattempo è l'IRA che si fa carico di difendere i cattolici dalla discriminazione attraverso metodi violenti. Cominciano i dirottamenti di autobus, il lancio di pietre, di bottiglie incendiarie e di bombe contro le forze dell'ordine. Insomma, comincia un vero e proprio scontro frontale con l'esercito. La linea degli inglesi è altrettanto dura, come dimostrano le parole del generale Sir Robert Ford, incaricato dal governo di riportare l'ordine nel paese. L'operazione sta andando molto bene come risultato di quello che abbiamo deciso questa mattina. La posizione ora nel nord dell'Irlanda è che nessuno può andare da nessuna parte in nessun momento. E questo è quanto vogliamo ottenere. Le armi cominciano ad essere l'unico strumento di dialogo tra le due parti. La situazione si fa sempre più tesa, fino al febbraio del 1971, quando viene ucciso dall'IRA il primo soldato inglese. Il governo inglese non sa molto di questa associazione paramilitare, ma per punire l'affronto decide di utilizzare metodi decisamente duri. Nell'agosto di quell'anno vengono arrestate senza motivazione 324 persone. A dicembre le persone arrestate sono 1576. Questa azione repressiva sconsiderata non fa che alimentare le fila dell'IRA. Anche chi non è ancora simpatizzante dopo il trattamento riservatogli dal governo inglese con l'arresto senza processo e senza motivo diventa militante. Tutto era sangue, come ricorda un attivista del Movimento per i diritti civili. Fin dall'inizio ci fu sangue. Sangue davanti a noi, sulle nostre teste, il sangue della gente morta sulle strade, il sangue degli amici, il sangue dei capi, sangue, sangue, sangue. Sangue come quel 30 gennaio del 1972, il giorno che è rimasto famoso appunto come la Domenica di Sangue, la Bloody Sunday. Durante una marcia per i diritti civili a Derry, i paracadutisti dell'esercito britannico sparano sulla folla, uccidendo 13 manifestanti e ferendone molti altri. La situazione nella provincia sembra ormai fuori controllo e nel marzo di quell'anno il governo britannico decide di sospendere il Parlamento nordirlandese, assumendo il controllo diretto dell'Irlanda del Nord. Il 72 rimane l'anno con più vittime, ben 476. Durante l'intero periodo, l'IRA e l'esercito britannico, quasi tutti i giorni, si misurano con degli scontri a fuoco nelle strade di Belfast e Derry. Alla metà degli anni 70, Belfast di sera è una città fantasma, dove si rischia di essere uccisi per essere trovati nel posto sbagliato al momento sbagliato. È in questo clima che comincia la storia di oggi. È dal crescendo di violenza apparentemente senza speranza che nel cuore di molte persone nasce l'idea di una soluzione alternativa. È dall'incontro di due cuori coraggiosi, cresciuti nelle strade di Belfast, che nasce la svolta per un nuovo futuro, non più macchiato di sangue. Destini incrociati oggi è in Irlanda del Nord. Gli anni 70 sono appena cominciati e i disordini, i cosiddetti Troubles, sono ormai un fatto triste di cronaca quotidiana. Cattolici indipendentisti, ovvero repubblicani, e protestanti unionisti, ovvero fedeli alla Gran Bretagna, si combattono ormai ogni giorno. Accanto all'organizzazione paramilitare dell'IRA, l'Irish Republican Army, c'è l'esercito inglese, mandato da Londra per controllare il paese. Mentre l'Irlanda del Sud è riuscita a diventare una repubblica, l'Irlanda del Nord vive il dramma della divisione. Dopo la famosa Domenica di Sangue, la Bloody Sunday, a Derry nel 72 viene sospeso l'autogoverno dell'Irlanda del Nord. La soluzione che si propone però non è ancora soddisfacente. Sono gli anni dell'accordo di Sunningdale, un timido tentativo di trovare un nuovo punto di inizio, superando l'eredità della storia. Si indicano elezioni per fare entrare nell'esecutivo anche una rappresentanza cattolica, ovvero indipendentista. Si dà inizio al power sharing, la divisione del potere, come verrà chiamato. Ma qualcosa ancora non funziona. Da troppo divisi, cattolici e protestanti non riescono a trovare un punto di incontro. Ecco come Ian Paisley, unionista inflessibile, da sempre contro un accordo con i cattolici, incita la folla durante quella campagna elettorale. Who will never surrender and who are prepared? Noi non ci arrenderemo mai. A questa intransigenza politica si aggiunge anche una rigidità personale della popolazione intera, che purtroppo è provata anche dalle cattive condizioni economiche. Nel 74 i lavoratori indicano uno sciopero nazionale, bloccando così la produttività del paese. È l'ennesimo braccio di ferro, dove le repressioni sono puntuali e sempre più efferate. Londra decide di riprendere il controllo del paese. Svaniscono le possibilità di concretizzare il sogno di una coesione. Ecco come ricorda quel periodo Maird Corrigan. So far, from 69 to 76, we had... Dal 1969 al 1976 avevamo violenza ogni giorno. La gente veniva uccisa, le bombe scoppiavano. Nessuno era ancora riuscito a fermare questo ciclo che doveva essere interrotto. In quegli anni più di 1600 civili vengono uccisi. Il 1976 comincia l'insegna delle bombe. Quell'estate l'ambasciatore inglese Christopher Ewart Biggs viene fatto saltare in aria dall'ira. Il primo ministro irlandese Liam Cosgrave ne denuncia l'atrocità. L'atrocità dell'accaduto fa provare a tutta la popolazione irlandese un senso di grande vergogna. Il governo è determinato ad utilizzare tutte le risorse per assicurare il proseguire della giustizia, seguendo il rigore della legge. Quella stessa estate, l'orrore per la situazione dell'Irlanda del Nord arriva al suo culmine anche per Maird, quando viene colpita personalmente. Per chi fa la storia, è difficile comprendere che c'è un momento preciso in cui si agisce, facendo la differenza per una comunità intera e a volte anche per l'umanità. Essere all'interno del processo di creazione della storia non dà la possibilità di capire fin dove arriverà un proprio gesto. Maird, col suo coraggio, è una di queste persone. Il 10 agosto del 76 incontrerà a suo malgrado il suo destino, che la porterà ad agire e a cambiare il corso degli eventi di una nazione e a incontrare l'altra protagonista di oggi, che seguirà la sua stessa strada. La gente come me, che per troppo tempo è rimasta in silenzio per apatia o per paura, adesso non ce la fa più. Dobbiamo dire stop alla lotta, siamo stufi. Non ne vogliamo più sapere, non ce la facciamo più. Maird ha un vestito bianco. Il vento caldo dell'estate le scompiglia leggermente i capelli scuri e la voce è quasi senza forza, ma le parole sono incisive. È stremata, affranta, abbraccia un ragazzino biondo spaventato mentre rilascia alla BBC questa intervista. Ha deciso di parlare, di dire quello che pensa. Le sue parole vengono mandate in onda in tutta l'Irlanda e in replica anche i giorni successivi. Una donna che decide di denunciare queste violenze, una donna che prende una posizione precisa contro gli attentati, una donna colpita negli affetti, che non può rimanere solo a guardare. Il paese ne rimane colpito, ma soprattutto ne rimane colpita un'altra donna, Betty Williams. Betty Williams. Red glasses skirt, your hair, your headdress is a ring of lights, but I would not fall down. Your architects were madmen, and your fellas sang for drunk, but I miss your fighting. Betty Williams, classe 1943, quella mattina del 10 agosto, sta camminando lungo Finaghy Road. Sta tornando a casa. Vive sola con i suoi figli, Paul e Deborah. Una donna come lei, abituata a cavarsela da sola fin da ragazzina, quel giorno si sente inquieta. Quando la madre muore, lei ha solo 13 anni. È lei a prendersi cura del padre e della sorellina. E anche quando ha soli 18 anni decide di sposarsi con un inglese, nessuno si stupisce. Il suo temperamento è forte e il suo fisico sembra supportarla in questo. spalle larghe, 1,75 m di altezza, e la voce squillante, decisa, come lei. Forse è anche la fortuna di essere nata a Belfast, in una famiglia che con la religione ha avuto un rapporto abbastanza insolito. Ho avuto un background piuttosto strano. Mio nonno era ebreo, mio padre era protestante e mia madre cattolica. Così ho avuto tutte le visuali e mi sono sempre sentita molto fortunata ad essere in mezzo a tutti loro, soprattutto in Irlanda, religiosamente parlando. Anche Betty è cresciuta all'ombra delle bombe, del terrore. Il marito fa un lavoro che lo porta all'estero, quindi anche lei, come le mogli dei soldati, ha portato avanti la sua famiglia da sola, prendendo decisioni da sola, soffrendo per le ingiustizie del suo popolo da sola. Questo non ha fatto che rafforzare il suo carattere. E anche se spesso nasconde i suoi vitali occhi azzurri dietro a occhiali scuri, il suo spirito battagliero traspare da ogni suo gesto. Dopo aver assistito ad alcuni attacchi ai danni dei suoi vicini di casa cattolici, pensa addirittura di entrare a far parte dell'IRA. Forse una pistola è quello che ci vuole per fermare questo disastro. Pensiero che abbandona presto, quando viene colpita negli affetti. Vittima di una delle bombe dell'IRA in un pub a Belfast è un suo cugino. Mio cugino Danny era un uomo fantastico. Stava studiando per diventare medico. Era bello, affascinante. E nel weekend lavorava in un pub a Belfast. E quando tornava a casa, prima di andare a letto, si faceva sempre il segno della croce. E al suo funerale un giornalista ha chiesto a mia zia, la stampa sa essere davvero crudele, le ha chiesto come si sente. Che domanda stupida. Come può sentirsi una donna che ha appena avuto una perdita così grande? Ma sapete cosa ha risposto lei? Sono felice di essere la madre di Danny e non la madre dell'uomo che l'ha ammazzato. Quanto coraggio, pensa Betty, ci vuole per pensarla così. E se si parla di coraggio, anche lei non è da meno. Quando un giorno vede dalla finestra di casa sua uno dei militari inglesi che ormai pattugliano la città giorno e notte, che viene colpito e ucciso, si butta in strada a soccorrerlo. È solo un ragazzo, ha poco meno della sua età. In quel momento prova un senso di orrore nei confronti di tutto quel sangue e di quella gente che la guarda sbigottita dietro le tende di casa, perché lei, una irlandese, sta piangendo per la morte di un inglese. Tutto ha un limite, pensa Betty, pur sapendo che non rispondere alle minacce quando si è colpiti è davvero molto difficile. È davvero difficile non colpire qualcuno che ti ha colpito. Quello che si deve imparare a fare è porgere l'altra guancia, voltare le spalle e andarsene. Rimanere calmi è la cosa più difficile del mondo in quelle occasioni. Quando qualcuno ti guarda negli occhi e ti senti minacciato, è la cosa più difficile al mondo non rispondere. Quella mattina del 10 agosto, Betty ha la testa affollata da tutti questi pensieri. Pensa ai morti per le strade, pensa al suo paese così dilaniato dalle bombe, alla violenza, che chiama altra violenza, quando la sua attenzione viene attirata dal rumore di un'auto che corre a tutta velocità. È una Ford blu con a bordo un ragazzo, un militante dell'IRA. È inseguita da due jeep di militari inglesi. Le persone che camminano sul marciapiede sono tante, sono soprattutto madri con figli, e mattina la scuola è chiusa per il periodo estivo. Tutto si consuma in una frazione di secondo. Due colpi di pistola arrivano da una delle jeep. Il ragazzo alla guida della Ford viene colpito. La macchina sbanda, finisce sul lato destro della strada, proprio lì dove una mamma ha appena finito di sistemare il cappellino a uno dei suoi quattro figli, Andrew, di appena 6 settimane, mentre ha per mano Joanna, di 8 anni, e John, di 2. È una carneficina. I tre bimbi muoiono sul colpo. La madre viene gravemente ferita. La madre è Anne Corrigan, la sorella minore di Merd, che assiste inerme qualche passo più indietro alla tragedia. Con lei c'è il quarto figlio di Anne. Sull'altro lato della strada Betty si sente mancare. Le parole non faticano a uscire dalla bocca di Merd quando la BBC la intervista a caldo. Quelle parole che lasceranno un segno profondo. Dobbiamo dire stop alla lotta, siamo stufi, non ne vogliamo più sapere, non ce la facciamo più. Destini incrociati. È il 1976. Maird Corrigan ha appena perso 3 dei suoi nipoti in un incidente d'auto causato dall'uccisione da parte dell'esercito inglese di un soldato dell'IRA. Betty Williams è testimone. Sembra che nulla possa fermare la violenza che scorre per le strade dell'Irlanda del Nord. La forza dimostrata dalla Corrigan nel dare alla nazione e al mondo intero il suo messaggio di pace scuote la Williams, che decide di unirsi a lei. Betty assiste all'incidente. Non conosce quella famiglia, ma il dolore che prova è come se fosse la sua. Corre dall'altro lato della strada. Si assicura che i superstiti stiano bene. Per i 3 bambini non c'è più nulla da fare. Maird e Betty non parlano molto, non c'è molto da dire, almeno non a parole. Ma la comunicazione che riescono a instaurare è di altro genere. Qualcosa è passato attraverso semplici gesti. Qualcosa che le ha scosse profondamente. Dopo solo 48 ore, Betty ha già raccolto migliaia di firme per organizzare una marcia. Sono invitati tutti, cattolici e protestanti, uomini e donne, unionisti e indipendentisti. Non c'è colorazione politica o religiosa, è solo la gente che vuole dire basta. Come nelle parole di Maird, basta alla violenza, alla lotta, alle bombe, alla paura, basta. Bisogna dare inizio a una nuova battaglia. A battle to replace all wars with peace, all hate with love. Quelle parole, dette stringendo a sé l'unico nipote superstite della tragedia, risuonano nel cuore e nell'anima della nazione. Nessuna di loro due ha però dimestichezza con questo genere di organizzazioni. Al principio, visto il numero di persone che rispondono al richiamo, si arrangiano come possono. Non hanno un ufficio, usano il telefono di casa. Nonostante questo, il movimento aumenta. Le coscienze si sono mosse. Sono soprattutto le donne che accorrono numerose. Forse la morte di 3 bambini, la perdita estrema dei figli, scuote le madri di tutto il paese. Un giorno si presenta Charan McEwan, un fotoreporter, padre di 4 figli e ovviamente sensibile al discorso, pur essendo un uomo. Si offre di mettere le sue capacità al servizio di queste 2 donne meravigliose e di aiutarle a istituzionalizzare il movimento. Nasce così la Community of Peace People. Non un'impresa facile, come ricorda Maird. Era molto pericoloso. Siamo stati minacciati, macchine distrutte. Qualche persona che marciava per la pace ha preferito tornare a casa. Ma abbiamo organizzato una marcia ogni sabato, a partire dall'agosto del 76 sino al dicembre, in tutto il nord Irlanda e anche al sud. Si sono poi unite manifestazioni in tutto il mondo per supportarci. Lo abbiamo fatto per ridare alla gente un senso di dignità. Per dire alla gente che anche loro potevano fare qualcosa contro la violenza, che potevano combattere la violenza senza sentirsi paralizzati dalla paura. La Peace People diventa sempre più grande. McEwan si presta a scrivere la dichiarazione di pace del movimento e fonda un giornale, il Peace by Peace, dove contribuisce attraverso la stampa a diffondere questa nuova cultura della non violenza. Perché la pace è l'unica lotta possibile. La non violenza deve essere la scelta definitiva. Ecco come ne parla Betty con la sua carica. Perché la pace è una battaglia. La pace non sono gli arcobaleni, la pace non sono le colombe bianche. Si può pregare per la pace, si può marciare per la pace, si può urlare per la pace, ma devi lavorare per ottenerla. Numero uno, in ogni cosa che facciamo, nel campo della giustizia, della libertà e della pace, c'è sempre un duro lavoro. Le donne possono fare la differenza. Possono diffondere una cultura diversa. Le donne sono lo strumento adatto per cominciare a costruire una nuova visione del mondo. Sono loro che danno la vita e che quindi si devono sentire in dovere di battersi per difenderla. A tutte le donne del mondo io dico: voi date la vita. It is your duty. È un vostro dovere cercare di proteggere questa vita. Quando la gente mi chiede perché ho fatto il movimento per la pace nell'Irlanda del Nord, è molto semplice per me. I loro nomi sono Deborah e Paul, i miei figli. Io non voglio che crescano in una società dove c'è il terrore, la violenza, la discriminazione. Violence, discrimination. Betty Williams e Maird Corrigan diventano in pochi mesi il simbolo della lotta per la pace. Il mondo non parla d'altro. È il 1976. Le isole Seychelles ottengono l'indipendenza dal Regno Unito dopo 160 anni. Per l'Irlanda del Nord le cose non saranno mai così. Ma il People Peace Movement, intanto, sembra dare una nuova speranza. Come on! Everybody come down! L'eco dell'azione delle due donne arriva anche all'Accademia di Svezia, che anche se fuori tempo massimo per la candidatura, decide di premiarle con il Nobel per la pace per l'anno 76. Quell'anno non si svolge la cerimonia di premiazione, così vengono insignite del premio l'anno successivo, insieme ad Amnesty International. Poco male. Il messaggio al mondo è arrivato. Tutti possono fare qualcosa, ognuno può contribuire a creare un mondo di pace. Tutti, proprio tutti, anche due donne che si sono incontrate in una tragica circostanza e hanno deciso di muoversi e agire. Perché, come dice Mayrd, le donne possono realmente fare la differenza. Le donne, se guardiamo indietro nella storia, non hanno avuto il ruolo militare degli uomini. Le donne sono sempre state per la vita, per una politica del consenso. Hanno sempre cercato delle alternative. Io penso che le donne abbiano un ruolo importantissimo nel mondo di oggi. La Williams ricorda in un'intervista la paura che ha avuto dopo la vittoria del Nobel. Ero una giovane donna quando ho vinto il Nobel per la pace. Avevo solo 31 anni ed ero terrorizzata. Era davvero spaventoso. Il timore di Betty è lo stesso di Mayrd. Quello di non essere all'altezza di una così grande responsabilità. Diffondere la pace, essere di esempio. Al primo intervento dopo il premio, la Williams però non manca di essere incisiva e puntuale sugli obiettivi del movimento. Abbiamo un semplice messaggio da dare al mondo da parte di questo movimento per la pace. Vogliamo vivere e amare e costruire una società giusta e pacifica. Vogliamo che i nostri figli e noi stessi possano vivere con gioia e in pace, in casa, sul luogo di lavoro e di gioco. Ci rendiamo conto che per costruire una siffatta società sarà necessaria dedizione, coraggio e molto lavoro. Ci rendiamo conto che ci sono molti problemi nella nostra società, che sono fonte di conflitto e di violenza. Ci rendiamo conto che ogni proiettile che viene sparato e ogni bomba che esplode rende questo compito ancora più arduo. Rifiutiamo l'uso delle bombe, dei proiettili e di tutti gli strumenti di violenza. Ci dedicheremo assieme ai nostri vicini, giorno dopo giorno, alla costruzione di una società pacifica, nella quale le tragedie che abbiamo visto siano solo brutti ricordi. Mayrd è davvero felice di avere incontrato una donna come Betty, forte, decisa, dal carattere complementare al suo. Proprio per questo hanno potuto fare un pezzo di strada insieme, a partire da quella mattina tragica di agosto sino alla vincita del premio Nobel per la pace, passando per le manifestazioni di piazza. La loro vita è decisamente cambiata. Parlare di pace, battersi per ottenerla, è un lavoro ormai. Unico rammarico di Mayrd è che Charan McEwan non sia stato coinvolto nell'assegnazione del Nobel. Io sono stata molto dispiaciuta che Charan McEwan non sia stato coinvolto per il premio Nobel, perché in un certo senso eravamo tre cofondatori. Non era solo un movimento di donne, c'erano anche molti uomini. Certo, le donne erano il numero più grande, ma c'erano anche gli uomini e non averlo inserito nella premiazione mi è davvero dispiaciuto, perché era parte del trio. Tutti facevamo qualcosa e ci supportavamo. Quando è successo, mi sono davvero dispiaciuta. Il People Peace ha comunque vita breve. Dopo soli 2 anni dall'assegnazione del Nobel, l'associazione si scioglie. Quasi come se il tempo necessario a cambiare la vita di due persone si fosse esaurito. Adesso il destino lascia spazio a nuovi progetti. Mayrd prosegue la sua missione di difesa della non violenza, intervenendo anche su altri conflitti che insanguinano il mondo, da Israele all'Iraq. Nel 90 ottiene il premio Pacem in Terris. Betty nell'81 si trasferisce negli Stati Uniti. Viene insignita di numerosi riconoscimenti per il suo impegno umanitario, in particolare per la difesa dei bambini. È l'attuale presidente del World Center of Compassion for Children International. Per quanto riguarda la storia d'Irlanda, le cose non si sono del tutto fermate dopo l'intervento di queste due donne coraggiose. Solo nel 1998 Blair ha cercato un compromesso che per ora pare resistere, concedendo una discreta autonomia alla regione. Sembra ancora di sentire l'eco di quel grido. Let us start a new battle here today. And let the historians say that on the 6th of December 1976, the Irish people started a new kind of battle. A battle to replace all wars with peace, all hate with love. Thank you.